castelli di brande, dentro baracche di legno, notti insonni di gente che bagna di pianto lettere scritte da mani sante, un suonar di sirene che spezza il mattino, un mucchio di mani scaldate da un fumo di fiati, una gabbia di ferro che porta la luce, volti infelici dipinti di nero che con la morte diventano amici, un pensiero che vola al passar d'un gabbiano, una foto sbiadita della moglie lontano, un pugno di soldi per un sì di puttana, suona campana, suona campana. Un tavolo verde rigato di rosso, dipinto di quadri, di picche di fiori, una faccia da schiaffi, una giacca a due petti, all'occhiello una croce da cavaliere, il gioco è fatto, vince il re di denari, e la gabbia di ferro ritorna nel buio, portando con sé occhi spenti di vetro, dove la morte si specchia ogni giorno, un pensiero che vola al passar d'un gabbiano, una foto sbiadita di un amore lontano, un pugno di soldi per un sì di puttana, suona campana, suona campana. La la la.